24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il no della Commissione Europea all'idea italiana di uno scudo anti-spread. In Grecia giura il nuovo governo di Antonis Samaras, ora chiamato alla sfida di togliere Atene dal baratro. Intanto potrebbe essere questione di pochi giorni la richiesta di aiuti all'Europa da parte di Cipro, se ne parlerà al prossimo Eurogruppo. Oggi faremo il punto sui riflessi della G20 sull'Europa e soprattutto vi condurremo in un viaggio tra le diverse prove di maturità o equivalenti nell'Unione Europea. Infine parleremo di un match molto speciale tra Berlino e Atene. Uno scudo antispread è una sorta di aspirina che attenua il dolore ma non risolve la causa. Un paracetamolo finanziario che attenua il malessere ma non risolve le cause strutturali. Così il portavoce del commissario europeo agli affari economici Olli Rehn sulla proposta italiana di usare il fondo salva stati per evitare oscillazioni eccessive degli spread. Il ricorso agli EFSF implica condizioni da rispettare, quali riforme appropriate e la firma di un protocollo d'intesa, sottolineato il portavoce. Chi ne beneficia dovrebbe accettare le condizioni imposte dalla Troika. Domani chiederò al nuovo governo di fare un duro lavoro per uscire dalla crisi in cui versa il paese. Queste le prime parole pronunciate da Antonis Samaras, leader del partito Nea Democrazia, uscendo dal palazzo presidenziale dopo aver giurato come nuovo premier della Grecia. Ed è sempre più vicina la richiesta di un aiuto europeo da parte di Cipro, Cipro che a causa delle difficoltà della Grecia non riesce ad avere accesso ai mercati da oltre un anno. A dichiararlo fonti diplomatiche a Bruxelles che riferiscono che la situazione di Cipro sarà discussa all'Eurogruppo giovedì a Lussemburgo. La richiesta di aiuti potrebbe arrivare entro la fine della settimana a mercati chiusi. I ministri delle finanze europee discuteranno domani all'Ecofin la creazione di una tassa comunitaria sulle transazioni finanziarie, optando per una cooperazione rafforzata tra 9 paesi. La Commissione continua a privilegiare una soluzione a 27, ma il veto della Gran Bretagna è e rappresenta un forte ostacolo. I leader europei sono pronti ad annunciare un accordo da 600 miliardi di sterline per il salvataggio di Italia e Spagna. A riportarlo il quotidiano britannico The Daily Telegraph, secondo il quale i due fondi di salvataggio europei saranno usati per acquistare il debito delle economie in difficoltà. L'Europa lavora un sistema per aiutare i paesi a rischio contagio, a partire da Italia e Spagna, ad affrontare la situazione degli spread e portare avanti le riforme. Questa è la svolta che emerge da un G20 in cui i grandi hanno fatto della crescita la loro priorità numero uno. Dopo mesi di negoziati e indiscrezioni, il G20 di Los Cabos, in Messico, sancisce la presa di coscienza che occorre una rete di sicurezza per le due economie dell'Eurozona finite sotto attacco dei mercati, le cui dimensioni ragguardevoli richiedono un salto in avanti. Serve un piano globale per la crescita perché l'Europa, il secondo continente più ricco del mondo, ha bisogno di tutto il pianeta per tirarsi fuori dal baratro economico in cui è caduta. A scriverlo in un intervento pubblicato sul Sole 24 Ore l'ex premier britannico Gordon Brown, sottolineando che la crisi che sta affrontando il continente non è solo del debito pubblico ma anche del suo settore bancario. Intanto un rapporto lancia l'allarme sulle banche, con in pancia troppi derivati in servizio. Il problema sta nelle regole di Basilea 3, quelle che dovrebbero assicurare una maggiore stabilità delle banche, garantendone il mantenimento di determinati requisiti patrimoniali. Ecco, dal calcolo di questi requisiti sono esclusi i derivati. Dunque le banche europee si sono letteralmente riempite di questi strumenti, scrive un rapporto di Ricerche e Studi Mediobanca, che analizzando i bilanci dei principali istituti stima una cifra di 5.854 miliardi, equivalente alla metà del prodotto interno lordo europeo. Miliardi investiti su strumenti che per il 97% sono di natura speculativa e sui quali un 10% di perdite eroderebbe di oltre la metà il patrimonio di vigilanza delle stesse banche. Le differenze però tra istituto e istituto sono nette, in particolare quelli italiani hanno un'esposizione piuttosto bassa, all'8,1% degli attivi totali Intesa San Paolo, al 12,7% Unicredit. Barclays e UBS arrivano al 34%, mentre il picco è di Deutsche Bank, per la quale i derivati rappresentano oltre il 40% degli attivi. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Giappone ha segnato a maggio un deficit commerciale di 907,26 miliardi di yen, circa 9 miliardi di euro, quasi doppio rispetto ai 500 miliardi attesi dagli analisti, a causa dell'import di combustibili fossili per compensare lo stop delle centrali nucleari e della crisi anche del debito europeo. Con l'Europa è addirittura spuntato il primo rosso da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1979. Ora i mercati, chiusura in netto rialzo per Milano e Madrid, sull'ipotesi poi raffreddata dall'Unione Europea che sia utilizzato il fondo EFSF per acquistare i titoli di Stato per tenere sotto controllo lo spread. Il FTSE MIB ha guadagnato il 2,13%, l'IBEX 1,5%. Chiusura in netto rialzo per Milano e Madrid sull'ipotesi, raffreddata dall'Unione Europea, che sia presto utilizzato il fondo EFSF per acquistare i titoli di Stato dei due paesi e tenere così lo spread sotto controllo. Intanto dal fronte greco è arrivata la buona notizia che è stata finalmente trovata la quadra per il nuovo governo. I mercati sono tuttavia rimasti appesi nell'attesa della decisione della Federal Reserve in materia di politica monetaria. Mentre lo spread italiano è scivolato a 416 punti e quello spagnolo a 515 punti, il FTSE MIB ha guadagnato il 2,13% e l'IBEX l'1,5%. Francoforte ha invece registrato un progresso solamente pari allo 0,45%, Londra dello 0,64% e Parigi dello 0,28%. A Piazza Affari sono volate le banche, confortate dall'andamento dei titoli di Stato. MPS è salita quasi del 6%, mentre è scattato il conto alla rovescia per il piano industriale che verrà approvato dal Consiglio di amministrazione lunedì. Si sono inoltre infiammate le Fiat, più 5,1%, confortate dal rialzo delle vendite di auto in Brasile. Mediaset ha vantato un progresso di oltre il 5% sull'ipotesi che a giugno sia nato un miglioramento del mercato pubblicitario. Infine, se Finmeccanica ha messo a segno un progresso di oltre il 6%, le Eni sono salite solamente dello 0,24% nel giorno in cui la società ha lanciato un nuovo bond dedicato agli investitori istituzionali. Eleonora Micheli da Radio Corp, per Radio 24 il Sole 24 Ore. Nel 2011 il prodotto interno lordo per abitante in Italia espresso in potere d'acquisto è risultato inferiore alla media dell'Eurozona 101% rispetto al 108 dei 17 e contro un valore di riferimento fatto pari a 100 per l'insieme dei 27, a renderlo noto Eurostat sulla base delle stime per il 2011. L'Europarlamento ha approvato la revisione del terzo regolamento sulle agenzie di rating che ridimensiona i loro poteri, limita il fenomeno dell'over-reliance, l'eccesso di affidamento nei confronti dei rating delle agenzie, introduce un calendario prestabilito per i giudizi sui debiti sovrani, conferma la responsabilità civile per le valutazioni sbagliate e chiede infine alle istituzioni europee di dare a se stesse una valutazione dei loro debiti. Ankara e Bruxelles sono vicine all'avvio di una trattativa su una futura abolizione dei visti per i cittadini turchi nell'Unione Europea, in cambio della firma da parte del governo del premier islamico nazionalista Recep Erdogan di un accordo di riammissione dei clandestini che passano in territorio comunitario attraverso la frontiera greca. È partita ieri la maratona della maturità, che però non è solamente un rito tutto italiano. Con similitudini e differenze è tempo di esami per tutti gli studenti d'Europa il servizio. Esame di Stato, Abitur, Matura o BAC. Cambia il nome, ma il rito è lo stesso. Sono milioni gli studenti europei che ogni anno, tra maggio e giugno, affrontano l'esame che corona 12 o 13 anni di scuola. In tutto il vecchio continente, nessuno può sfuggire agli scritti di letteratura, lingua straniera o al temuto colloquio orale. Ma anche le differenze sono tante, a partire dal voto finale. In Germania si va da 1 a 5, in Finlandia si arriva a 7. In Francia e Grecia a 20, mentre croati e irlandesi condividono con noi il voto in centesimi. C'è poi la commissione. In Grecia sono addirittura due, composte solo di esterni. Germania e Austria hanno commissioni interne e prove differenti da istituto a istituto, il sogno di qualsiasi maturando italiano. Anche il numero delle materie varia. Pochi ragazzi le portano tutte come si fa da noi. In Bulgaria ne bastano due, in Polonia tre. Nel Regno Unito, dove si può scegliere, raramente se ne preparano più di 3 o 4. Ma i più felici sono di sicuro gli studenti svedesi. Da loro la maturità proprio non si fa. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Uno dei modi per diminuire e razionalizzare la spesa pubblica potrebbe consistere nell'accorpamento delle 21 delegazioni regionali presenti a Bruxelles in un'unica sede con servizi in comune. È quanto chiedono alcuni eurodeputati in un appello rivolto al governo italiano. Tale misura renderebbe più efficace il coordinamento tra le politiche regionali dell'Unione Europea, evitando che si ripetano i mancati utilizzi di molti fondi stanziati per il nostro paese. Siamo allo sport, agli europei di calcio di Polonia e Ucraina 2012, oggi al via i quarti di finale con la sfida tra Portogallo e Repubblica Ceca, ma intanto si colora di significati politici la partita tra Germania e Grecia di domani a Danzica, probabile la presenza in tribuna della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ieri si è congratulata col neo premier ellenico Samaras per la formazione del nuovo governo, invitandolo in visita ufficiale a Berlino. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa. in collaborazione con Euronet.